squillino le trombe, rullino i tamburi, 7 e un minuto spaccato. Martedì 18 settembre 2007, i lampioni sono ancora accesi in questa mattina milanese dalla quale vi parliamo. Negli studi di Rock FM, siti in via Locatelli 1, 20124 Milano, anche quest'oggi l'Ariele ha il piacere di chiedere gentilmente alla Fido Spadino, regista della trasmissione Pane, Burro, Rock and Roll, se vuole di mandare una sigla, che mi sembra un modo preciso e puntuale di iniziare una trasmissione. Proprio da contratto uno dice inizi con la sigla, vai. Eccoci qua. Che ci fa quel signore che ci guarda dalla finestra? Salve Rock FM! Pane, burro e rock and roll. Messo un po' male a quest'ora il tipo, eh? La tua colazione rock. Eccoci qua. Pane, burro e rock and roll. Tra cu tra. E te vi codindina. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Yo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ehi tu amica là fuori, come fate colazione? Beh, noi con pane, burro e rock and roll, la formula vincente della mattina di Rock FM, ogni giorno sempre di più sintonizzati sulle nostre frequenze per affrontare al meglio una nuova sfida, una nuova giornata. Due ore di cialtronaggine con Mister Trombetta, già presentato, la Mucca Camilla. E ovviamente pralina di contorno fondamentale, ingrediente unico. È sparito il signore, è sparito. Dicevo ingrediente unico, scusate, Lo so che è poco radiofonico, ma a volte mi faccio prendere da cosa c'è fuori dalla finestra. Sono rapito da questa porzioncina di Milano che mi viene messa a disposizione ogni giorno. L'altro Spadino, secondo me, prima o poi dovresti andare per la strada a fare le interviste tu. Scusate, rischiavo di morire. Dicevo, ingrediente fondamentale di questa trasmissione, Roberto Fricantoni. Ma chi? Proprio lui? Sì, esattamente. Ma chi? Quello che ha scritto Non c'è gusto in Italia essere intelligenti? Sì, proprio lui. Ma chi? Quello che cantava Le sbarbine sono bionde, le sbarbine sono more, le sbarbine in amore? Esattamente. Ma come, da Bologna? Raga, sono 90 puntate che viene fino a qui. Non mancherà quest'oggi, no? Che c'ha questo martedì 18 per il quale non dovrebbe essere? Ci sarà ovviamente anche lui. Tranquilli, se questi ingredienti non vi bastano, ci giochiamo l'asso. Il buon rock and roll. Quest'oggi iniziamo la puntata un po' come se fossimo in discoteca. Che ingresso, ragazzi. Che ingresso lanciato da un Charlie pesantissimo. Signore e signori, iniziamo con i baci stamattina. I was made for loving you, baby. Ed è subito disco. Mollate tutto, si balla al volo oggi. Ma sì, 7-4, vai, via, che te frega, ma che te importa. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, so much. I wanna do, and tonight I wanna lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you, and girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You E giù fuochi d'artificio come se piovesse, capito? I was made for loving you baby, di Kiss. Che inizio quest'oggi, così senza riscaldamento. Spadino, sei sicuro? Guarda che dobbiamo resistere fino alle 9 almeno. Tra l'altro non vorrei ricordarti che quest'oggi sarà un lungo martedì 18. Eh sì, mi sa che non lo finiamo mica alle 9, si va avanti ininterrottamente. Beh, ma anche loro là fuori, quindi noi siamo in squadra con voi, voi siete in squadra con noi, bene. Se la cosa prende bene me e a voi prende bene, ci piglia tutti bene, allora stiamo precisi. Tranquilli, sono momenti giovanilistici che organizziamo per alzare anche l'ascolto nelle fasce giovanili, visto che riprendono le scuole. Ve l'abbiamo detto, in questa nuova ripresa di Pane, Burro e Rock and Roll puntiamo ad ascolti record e quindi cerchiamo di parlare in prima persona a tutte le diverse tipologie, fasce d'ascolto. Scusate questi termini tecnici, ma qui è Pane Quotidiano della redazione di Pane, Burro e Rock and Roll. Secondo voi come passiamo ore e ore del nostro tempo a costruire Pane, Burro e Rock and Roll? Ovviamente parlando di stupidate, esatto, l'avevate intuito anche voi là fuori, bravi, complimenti, bel naso. Vi ricordo, per entrare in squadra, il numero di SMS è semplicissimo, 335 100 7777, e grazie a un SMS che potrete entrare nel mio computer di destra. Volendo una casella di posta elettronica gettonatissima ultimamente, grazie alla possibilità di ascoltare la nostra trasmissione su RadioRockFM.com in qualsiasi momento della giornata, quindi tante sono le mail che arrivano poi nel corso del pomeriggio, della notte, della mattina tarda, insomma di quando vi decidete di ascoltare la puntata di Pane, Burro e Rock and Roll. Ariel chiocciola RadioRockFM.com. Scusate, rido perché vedo la prossima canzone. Cioè, tu non hai capito, Spadino, non ci arriviamo fino alle 9 così. Io non ci arrivo. Cioè, mi piglia un coccolone prima. Se mi ballo anche questa è andata, ragazzi. Io così tanta ginnastica in una giornata non l'ho mai fatta. Shocking Blue! Ehi, fricchettoni là fuori! Sciogliete i vostri capelli, questa è Venus! E via! stile di radiofonia classica che improntiamo pane, burro e rock and roll, sempre alla ricerca di nuovi ascolti, ma non sulla volgarità, non sul sensazionalismo, ma sulla qualità, sulla cultura, sull'approfondimento delle notizie. Buongiorno Roberto Fricantoni, buongiorno. Fresco come una rosa come ogni giorno. La ringrazio per la rosa ed è grazie a lei che tutto questo è possibile, mi permetta di dirlo. No, insisto, è grazie al DJ Ariele avviene. No, è grazie a lei, o forse, guardi, ho trovato il modo per mettere d'accordo capra e cavoli, e grazie alla redazione. Chi fa la capra? Io, se fosse possibile, lei fa il cavolo. Io faccio il cavolo, vabbè, ma poi ci sostituiamo. Almanacco del giorno che fu, grazie Spadino. Grazie redazione, martedì 18 settembre. Con certezza, sì. Senta da dove parte. Da dove parte, Liberto? Dal 1851. Oi là là! Per segnalarle il fatto che un giornale prestigioso, ovvero? Uno dei più famosi al mondo, il New York Times, inizia le pubblicazioni proprio... Buon compleanno al New York Times! Buon compleanno! Iniziò proprio il 18 settembre del 1851. Tra l'altro, se qualche redazionista del New York Times volesse mettere un trafiletto di ringraziamenti, visto che gli abbiamo fatto gli auguri, sì, abbiamo ricordato, noi ci siamo, abbiamo anche delle foto da archivio che possiamo inviare. Esatto, una noticina, sì, possiamo fargli avere Cantoni, Rock FM, un po' di robe, sì, di promo, dei curriculum. Passiamo a una notizia medica. Dei curricula. Dei, sì, curricula. Passiamo, sì, a una notizia medica. 1895, era il 18 settembre. Sì, guardi, lei non ci crederà. No, stento. Era proprio il 18 settembre del 1895 quando Daniel David Palmer... Oi là là. Esegue il primo aggiustamento chiropratico. In che senso? Perché deve sapere che, sì, il dottor Palmer, sì, scoprì che togliendo la causa di una irritazione ad un nervo, sì, per mezzo di un particolare tipo di manipolazione della colonna vertebrale, guardi, glielo faccio vedere. Ecco, vede? Senti che roba! Un massaggio! Un po' più forte. No, esatto. Ecco, il dottor è un massaggio chiropratico. È stato il primo massaggino chiropratico, esatto, della storia. Esatto, con il quale il dottor Palmer alleviò, sì, il sintomo della sordità in uno dei suoi pazienti. Lei ci sente bene, DJ Ale? Abbastanza, ho le cuffie. Quante abbastanza dita sono queste? Due. Sembra sia tutto a posto. Era per confonderla un attimo. Lei ci sente benissimo. Passerei ad un'ultima notizia legata al 18 settembre. Era il 1983. Si parla dei Kiss. Ah, colpo di scena. Certo, entriamo nell'argomento. Siamo a bomba, dunque. I Kiss. Era proprio il 18 settembre quando i Kiss per la prima volta si rivelarono senza maschere e senza il tradizionale trucco alle telecamere di MTV, il tentativo di rilancio di una formazione in calo di gradimento e vendite. Potremmo imparare dalla storia, certo, rileggere la storia, Frick. Per un gruppo in calo di gradimento e di vendite, loro si sono struccati, lei potrebbe truccarsi. Lei è il contrario, il contrario. Vegetali. Infatti. Lei potrebbe indossare una tutina attillata verde e fare il cetriolo. Io vorrei fare l'albero, il pino, un sempreverde. Ad Endivesse potremmo far fare la margherita. Con, sì, qualche rimando anche all'ippismo, metti, sì, un fiore nei tuoi cannoni. Esatto, un filo dei fiori non pensa al domani, esatto, una delle nostre must. Se lo appunta, sì, rilanciamo gli Schianto, esatto, sconvestiti, accattivanti. Esatto, Fricantoni vegetale in forma di pino. Ecco, però... Dica. Ma pensavo, riflettiamo un attimo insieme ai nostri, sì, radioascoltatori e alle radioascoltatrici. Pure. Sarà stata una mossa vincente questa di togliersi il trucco e la maschera che era l'essenziale per i Kiss. Non potevano forse inventare, astrologare, studiare qualcosa di diverso? Sa che con astrologare mi ha veramente colpito? Astrologare fa effetto, eh? La useremo più spesso. Venga qua sul cerchietto che astrologhiamo qualcosa. Stone set in thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Faccio il falsetto alle 7:26 minuti primi e mi viene mal di testa al volo. Vorrei affrontarla un po' più con calma questa giornata. Ho fatto un inizio forse un po' troppo esagerato. Gli U2 che fanno un po' gli sboroni in questa mattina dicendo che possono vivere con o senza di voi, beh, loro se lo possono permettere perché sono già ricchi e famosi. Noi invece della squadra di Pane, Burro e Rock'n'Roll siamo ancora poveri e sfortunati, quindi permetteteci di ricordarvi che senza di voi non possiamo assolutamente vivere. Sviolinata, Pane, Burro e Rock'n'Roll ed è subito amore. Si sono spenti i lampioni qui in diretta. Perché si spengono alle 7:26? O siamo in ritardo noi con l'orologio, cosa probabile, oppure tipo c'è un gigantesco orologio nel comune di Milano che è avanti di 3 minuti. Fammi controllare tutti gli orologi. No, ce li ho tutti più o meno alle 7:27. Va bene, i lampioni di Milano si spengono alle 7:27, sappiatelo come notizia di cronaca di quest'oggi, di martedì 18 settembre. Noi ci prendiamo una brevissima pausa. Tra l'altro tenteremo anche quest'oggi di salutarvi tutti quanti. Io ogni giorno vi chiedo di scrivere all'SMS, poi partono le chilate di messaggi e gnafo mai. ma è ancora la prima mezz'ora di diretta, quindi ce la potrò fare con calma. Ma qui c'è clima di festa negli studi, perché alle 7.30, come ogni giorno, svegliamo la seconda tranche di radioascoltatori con uno stacchetto. Quest'oggi abbiamo lo stacchetto nuovo, ragazzi. Ah, roba di lusso. Restate lì che lo sentiamo insieme tra poco. Che roba. Vivere oggi. Lavoro. Impegni. E finalmente... Pane, burro e rock and roll. Perché ti vuoi bene. E beh, che c'è? Rock FM Spot. Iced Earth, Framing Armageddon, Something Wicked, parte 1. Il nuovo album della heavy metal band americana. Iced Earth, Framing Armageddon, Something Wicked, parte 1. L'inizio di un epico viaggio. Nei migliori negozi, distribuito da Audioglobe. Rock FM presenta Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. Perché piangi? Non lo sai, Cecilia. Dal 21 settembre non perdetevi il film che ha emozionato Venezia. L'ho visto con i miei occhi. Bugiardi, siete bugiardi! Travolgente, il tempo. Emozionante fino alla commozione. Corriere della Sera. Dal regista di Orgoglio e Pregiudizio. Espiazione. Dal 21 settembre al cinema. Cinema. Ratto! Dal 17 ottobre. A volte... Yeah! Basta una parola. Ratatouille. I creatori di Alla ricerca di Nemo, Cars e gli Incredibili vi serviranno una commedia di gran gusto. Esatto! Disney Pixar presenta Ratatouille da mercoledì 17 ottobre al cinema. Cinema. Dopo Ho voglia di te, una nuova grande storia d'amore. Cristiana Capotondi, Primo Reggiani, Ludovico Fremoni. Scrivilo sui muri. Un film di Giancarlo Scarchilli. Dal 21 settembre al cinema. Cinema. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. The best rock.